Ciao, sono Nicola Conci e purtroppo ragazzi dovete ascoltare un'altra volta una puntata di Geronimo. Amiche e amici del ciclismo del Giro d'Italia e nemiche e nemici del ciclismo e del Giro d'Italia, perché ricordiamo sempre che noi siamo un podcast tollerante, aperto a tutti, ci facciamo un baffo, anzi ci facciamo un sasso di quelli che non ci vogliono bene. Noi vogliamo bene a tutti, siamo all'ombra, cioè siamo sotto della plastica in questo momento, ma all'ombra, lassù all'orizzonte del grande sasso, non so se è il più grande sasso d'Italia, ma comunque è grande. Siamo alla puntata numero, non lo so, di Geronimo 2024. Siamo nella terrazza del bar Lo Chalet. Si chiama Dehors. Dehors. Nel Dehors del bar Lo Chalet del Grande Sasso, e siamo qui per parlare di Giro d'Italia o non so di quali cose. Nel frattempo ringraziamo Nicola Conci che ci ha regalato questa sua introduzione. Questo podcast è realizzato per Alvento, Italian Cycling Magazine, con il supporto di Shimano e con le voci amorevolissime del mondo di Bidon e della galassia di Bidon, galassia che quest'anno brilla sotto la luce di una stella che è quella di Marta Bacigalupo. Oh, buonasera a tutti, emozionatissima per tutto sommato il mio primo arrivo in salita, perché Europa non conta, ci sono arrivata in macchina. Com'è andata, mal di gambe? incredibile, tutti i massaggiatori mi hanno accolto con asciugamani, fischietti, scenderò fischiando proprio. O fischiettando, impegnato a sorseggiare il 32esimo caffè della sua giornata, c'è Leonardo Piccione. Solo quinto in realtà, ciao a tutti. Beh, ma solo quinto perché è presto, oggi perché sta presto, registrando un po' prima, la tappa prima. È arrivata presto, sì. E al mio fianco, acclamato ancora da troppa gente, ormai non se ne può più, c'è il sempre luminoso Michele Pelacci. Desideroso, quanto mai volenteroso di mangiare un numero, diciamo, insano di arrosticini stasera. Sì, ma tu devi regolamentare un attimo la tua alimentazione, soprattutto la carne, Michele Pelacci. Sì, troppo. Sì. Comunque ne parliamo un'altra volta, adesso facciamo così, partiamo di sprint, partiamo come solo questo podcast sa partire, ovvero con uno straordinario acrostico. Straordinario lo decideranno gli ascoltatori dopo averlo, nel senso che non è ordinario. Ah, in quel senso allora sì, spero. Allora, pratiditivo, facile anche oggi con lettere utilizzabili. Procediamo respirando arrosticini tutti insudiciati. Dopodiché, impietosamente, Taddei insiste. Vince ovunque. Sì, solo respirando però, perché io non ne ho tenuto le mani fuori dal finestrino come mi ha insegnato Kautz, ma niente. Attendiamo la cena, ma prima di arrivare alla cena c'è il momento atteso. Che tutte le ascoltatrici aspettano. In cui le sillabe d'amore di Michele Pelacci ci sintetizzano la tappa numero 8 del Giro 2024. La partenza da Spoleto è subito in salita e moltissimi corridori tentano la fuga. Si formano gruppetti, alcuni attaccano, altri si lasciano risucchiare. Gaethje vince il GPM di Forca Capistrello, che ho voluto citare per il nome clamoroso. Finalmente la fuga prende una forma definitiva e i componenti sono, oltre al barbuto tedesco, Alaphilippe, Pelayo Sanchez, Stoer, Valentin Paré-Peintre, Sheffield, Verre, De Marchi, ora finisce, Steinhauser, Bardet, Moulubrahan, Quintana, Marcellusi, Narváez. Se leggi le iniziali chissà che acrostico viene di questi fuggitivi. Comunque era un elenco lungo quasi quanto tutti i nomi di Michele Florindo Paré-Peintre. Sotto l'impulso di Langen e Bjerg il distacco si riduce sempre di più, finché non diventa palese che a partitivo saranno gli uomini di classifica a giocarsi la vittoria di tappa. Groschartner e Maika fanno il ritmo per Pogacar, ma sorprendentemente è Antonio Tiberi il primo ad attaccare. Pogacar tiene al guinzaglio lui e Arnesman e, in una volata in salita piuttosto telefonata, vince la sua terza tappa al giro, davanti a Dani Martinez e Ben O'Connor. Eh sì, è andata proprio così, terza vittoria di Pogacar su 8 tappe al giro, quasi più di un terzo, e ottava vittoria in 17 giorni di gara nel 2024. E comunque alla faccia del cannibale. Alla faccia del cannibale. Ha detto anche lui, perché mi chiamate cannibale, ne ho vinte solo 3 su 8, effettivamente. È una brutta media. Smettiamola con questo racconto, non ne ha vinte neanche una su due. Ordine d'arrivo Tadej Pogacar su Dani Martinez e Ben O'Connor, i più brillanti degli altri uomini di classifica, a 2 secondi un gruppettino regolato da Antonio Tiberi, comprendente Geraint Thomas quinto, Einer Rubio sesto e Kian Uijdebroeck settimo. Ottavo Timen Arensman a 11 secondi, nono Michael Storer, The Destroyer, a 13 secondi, già componente della fuga, e decimo Alex Bowden della Decathlon a 21 secondi. Ulala! Segnalo, Romain Bardet è arrivato, componente della fuga anche lui, è arrivato in un gruppetto con Piganzoli, Pozzovivo e Steinhauser a 2 minuti e 21. In classifica generale... Ma in quest'ordine? No, li ho pescati... Perché l'ordine è alfabetico. Era alfabetico? Stato bene, sì. Bardet, no, Piganzoli, Pozzovivo, Steinhauser in ordine alfabetico. È vero, è vero, è vero. In classifica generale, Tadej Pogacar rafforza ulteriormente, come se ce ne fosse bisogno, la sua maglia rosa, con 2 minuti e 40 adesso su Dani Martinez secondo e 2:58 su Geraint Thomas terzo. Quarto Eben O'Connor a 3:39, quinto Uijdebroeck a 4:02, sesto Tiberi a 4:23, settimo guadagna 3 posizioni Lorenzo Fortunato a 5:15, ottavo guadagna 4 posizioni Einer Rubio a 5:28, nono Arensman a 5:30, decimo Jan Hirt a 5:53. Dodicesimo è Storer a 6:21, quindicesimo e sedicesimo sono rispettivamente Pozzovivo e Bardet a 7 minuti e 37 e 7:51. Vi chiedo, sapete oggi... Pensavo volessi arrivare a farli tutti. No, tutti non li faccio, però vi chiedo... Però diciassettesimo cos'è questa ingiustizia? Diciassettesimo non lo so, se vuoi lo... Ah, non l'hai segnato, va bene, non importa, andiamo avanti. Steinhauser, che sarà Steinhauser, protagonista di questa puntata. Vi dedicheremo 2 ore in questa puntata. Quasi. Vi chiedo, secondo voi, quanti sono oggi i corridori che hanno meno di 10 minuti di ritardo da Pogacar? Ieri erano 27, oggi secondo voi quanti sono? Ma questa è Piccione Analytics. È un quiz in realtà, rivolto a voi. 44, come i gatti. No, si sono ridotti evidentemente. Che ne so, ci sono gli abbuoni, i traguardi volanti. Io dico 8 in meno, quindi 19. E dici bene, secondo me hai sbirciato. Sono 19 soltanto i corridori che dopo 8 tappe hanno meno di 10 minuti di ritardo in classifica generale da Tadej Pogacar. Ricordiamo che abbiamo un sogno nel cuore, Tadej Pogacar, che vince il giro con più di 10 minuti sul secondo in classifica. Di questo passo sarà realizzabile, credo, ma... Prima di entrare nel vivo dell'analisi di questa tappa, come di consueto, Marta estrae la sua carta nella rubrica Giromanzia, che ci spiega a posteriori il tema, uno dei temi di questa frazione. Eccoci qua, prima o poi vado direttamente a far estrarre le carte a Poggi, perché ahimè anche oggi il tarocco che è uscito riguarda lui, è uscita la carta dell'imperatore. È uno degli arcani maggiori, in questo caso ha un significato ambivalente. Sappiamo che ha un significato se esce dritta la carta e se esce al rovescio ne ha un altro. In questo caso entrambi funzionano, perché è una carta in genere positiva, che è molto pratica, molto efficace, indica determinazione, consigli... favorevoli, forza, concretezza, energia, qua sembra quasi essere un istituto luce, ma e, ahimè anche appunto equilibrio e situazioni stabili, solide, destinate a durare, chissà se sarà così. E comunque non vi preoccupate, la carta dell'imperatore, non ho sbagliato arrivo in salita, anche se appunto è il mio primo, sono un po' confusa, ma è comunque abbastanza adatta, però... Alla reversa, come si dice, questa carta indica anche il potere vittima di se stesso, che diventa schiavo di se stesso. La tirannia inflitta o subita. Tanto da arrivare quasi alla trasformazione da saggio a despota spietato. Praticamente guerre stellari. Esatto, puntini, puntini, puntini. Io non dico altro, ma vi lascio ragionare questo spunto. Prima che vi mettiate a ragionare, ci tengo a segnalarvi che Michele Pelacci, che non ci ascolta mai quando facciamo i podcast perché sta lì a cazzeggiare su quella cosa che usano i giovani che è l'internet, alla puntata 8+0 è andato a cercare arcani maggiori. Perché ricordiamo che, come usa fare Pelacci, ogni tanto ha detto, ma anche sta roba dei tarocchi mi sembrava proprio una cagata, eh. Poi è venuto fuori che ci sono motivazioni personali dietro, ma poi io ho argomentato, allora se l'è quasi comprata. No, perché tutti sanno qua cosa sono arcani maggiori, che io non lo sapevo. Sono 21 come tappa. Sono 8 puntate che stiamo facendo i tarocchi, pelacci. Comunque torniamo, torniamo al ragionamento sul Giro d'Italia, vi prego. Torniamo al ragionamento sul giro, facciamoci aiutare da alcuni protagonisti di questa tappa. C'è stata una fuga bella, purtroppo le ali dei fuggitivi sono state tarpate dalla UAE e dalla fame insaziabile di Tadej Pogačar. Era una fuga in cui c'erano uomini di classifica, attaccanti, cacciatori di tappe, tutta una serie di corridori interessanti. Ne abbiamo ascoltati alcuni dopo l'arrivo. Vi facciamo ascoltare uno dopo l'altro Michael Storer, che parla italiano come già saprete, e Simon Geschke della Cofidis, che invece tradurremo in uscita perché parla in inglese. Michael, complimenti per la tappa di oggi. Sei in una posizione strana perché sei forse troppo vicino in classifica generale, però quando arrivi coi migliori c'è Pogačar, che è molto difficile da battere. Come puoi andare avanti con questo giro? È una bella domanda. Pogačar è un problema per tutti nel gruppo. Forse nelle prossime tappe perdo un po' di più tempo e poi mi lasciano andare. Però vediamo, il giro è lungo. Ieri non ho fatto come volevo, però più o meno la forma c'è. Oggi è una buona giornata, no? Sì, sono contento con oggi. Sì, è solo un peccato che non hanno lasciato andare la fuga. Però... La prossima volta. Sì, magari. Congratulations for an incredible day out in the front row. How was it? Yeah, very nice to be in such a strong breakaway. But yeah, I think everyone expected UAE to give us a bigger gap. And I was hoping to go for the stage today, but it didn't happen. If you have all day and not even 2 minutes, it's too hard. Yeah, apparently UAE feels really strong. But yeah, I'll try again for sure. And your friend Thomas De Gendt tweeted that it was on the breakaway the second best bird in the peloton. Actually, it is really beautiful. Thank you. Okay, if he wants to, if there's a trophy for it, he can have it. Okay, you are the winner today. Bye, thank you. Allora, complimenti per la giornata in fuga, gli ho chiesto. Com'è andata? Addirittura gli ho chiesto proprio in prima fila. E lui mi ha risposto, sì, è stato bello essere in una fuga così forte, ma immagino che tutti ci aspettassimo che la UAE ci avrebbe lasciato più spazio. Speravo di andare per la tappa oggi, ma non è successo. Quando non prendi neanche 2 minuti è dura. Si direbbe, non lo dice solo lui, che alla UAE si sentano molto forti, ma ok, ci riproverò di nuovo sicuramente. Poi non mi sono potuta esimere, come sapete, date la mia fashion police, di dirgli che il suo amico Thomas De Gendt aveva scritto un tweet e ha scritto che sei la seconda barba più bella del gruppo. Ha detto oggi in fuga c'è la seconda barba più bella del gruppo. E io ho dovuto aggiungere che in effetti è molto bella perché è rossa, proprio brillava al sole. Lui ha ringraziato e ha detto che se c'è un premio per questo può averlo De Gendt, tra parentesi, nota della redazione. E gli ho risposto che invece oggi ha vinto lui. E probabilmente c'è, adesso io non ho seguito tutte le premiazioni, ma immagino sia stato assegnato questo premio. Se fosse stato assegnato invece per il pizzetto migliore del gruppo, forse l'avrebbe vinto un altro fuggitivo di giornata, che è Julian Alaphilippe. Ouais, ouais, je voulais tenter le coup et pas de regret, j'ai essayé. Après, ouais, c'était pas évident. Je pense que c'est oui, UAE qui avait un plan avec Pogačar pour gagner aujourd'hui. Et je pense que même si j'avais relancé, qu'on se serait retrouvé un petit groupe avec des coureurs moins proches au général, ils auraient quand même roulé à bloc derrière pour gagner avec Pogačar. Donc, ouais, une journée comme ça, faut avoir le moral. Et là, tu es arrivé avec un sourire quand même. Ouais, il fait beau, je suis content. Regarde, en plus, regarde comment c'est beau, regarde. Merci beaucoup. E dunque un allegro alla Philippe, dice che voleva provare a fare il colpo, che non ha nessun rimorso per la sua tattica di giornata. Credo che avessero un piano per vincere con Pogačar. Penso che anche se ci fossimo trovati con corridori meno vicini in classifica generale, ci sarebbero comunque venuti a riprendere per vincere con Pogačar, cosa che effettivamente è stata poi confermata. Ma giornate come questa, dice Alaphilippe, servono per il morale, e io comunque gli ho fatto notare che effettivamente l'ho visto arrivare, ma proprio sorridente, come non lo vedevo da un po'. E lui ha detto, sì, c'è bel tempo, sono contento, e poi guarda in che bel posto siamo, e per la milionesima volta nella mia vita mi trovo a dare ragione a Giuliana Alaphilippe. Ma è allegrotto davvero, stamattina parlava, diceva parolettine in italiano dai bus parlando, e anche lanciato benedicente un bidon ai suoi tifosi. Sì, Alaphilippe soddisfatto, meno avete sentito gli altri componenti della fuga. Storer della Tudor ha detto che Pogacar è un problema per tutti in gruppo, perché non si sa come comportarsi. Lui sta in classifica, è dodicesimo, ha detto proverò a perdere tempo, vediamo se in questo modo, stando più lontano dalla maglia rosa, mi lasceranno andare in fuga. Ci riproverà, però non è detto, perché sembra che appunto Pogacar non voglia fare sconti. Bardet, non l'abbiamo sentito noi, ma ho letto una sua dichiarazione, ha detto che mentalmente questa giornata l'ha ucciso, la UAE ci ha messo la museruola per non farci andare via. È una situazione che io in un certo senso temevo un po' di più a inizio giro, questo dominio di Pogacar ce lo aspettavamo. Però ecco, in questa forma in cui lui vuole vincere anche senza dare spettacolo, con questa concretezza che ha mostrato oggi, no? Conservare le energie, fare solo lo sprint finale per vincere la tappa, è un Pogacar che non dà spettacolo, oggi non ha dato spettacolo, e porta a casa il risultato. Però il suo sprint è stato bellissimo. Cioè è riuscito a fare questa volata, era talmente superiore agli altri che per due se non tre volte si è girato quasi rialzandosi, a guardarsi alle spalle, poi ha rilanciato, poi si è rigirato, si è guardato alle spalle, ha rilanciato. Insomma, proprio una situazione da re sole, nonostante Pogacar, poi lo stesso Pogacar abbia dichiarato più volte che non era partito per vincerla questa tappa. Infatti siamo sicuri. È stata una dinamica di corsa. Ma appunto non siamo sicurissimi, perché sia Gianetti che poi anche Taddei in conferenza stampa ha detto che è proprio la squadra che ha voluto, che si sono trovati alla fine della discesa per vedere cosa fare, e soprattutto Bjerga aveva la gamba croccantissima e hanno voluto andare per la vittoria. Infatti devo dirvi che io ho visto arrivare Maika con un sorriso, cioè era proprio contento al traguardo. Sì, non hanno mai dato più di due minuti a questa fuga in cui non c'erano oggettivamente corridori pericolosi per insomma, la classifica generale. Insomma. C'era Bardet, c'era Storer, ma Pogacar non ha paura. Ma il discorso non è una questione di paura, però è anche un discorso che quando ci sono corridori che sono relativamente vicini in generale e che sono anche corridori più o meno sperimentati sulle grandi corse a tappe, non è una questione di paura, è che effettivamente lo spazio non glielo concedi. Io su questo non do troppi torti alla UAE. Fosse stata una fuga senza dei nomi minacciosi, allora mi sarei spiegato a fatica questa scelta, che probabilmente sarebbe stata uguale. Pogacar l'ha ribadito, come lo diceva anche Alaphilippe, se anche non ci fossero stati nomi un po' più pericolosi come i Bardet, come chi altro c'era, Steinhauser, che è messo bene in classifica, ma su di lui forse sappiamo meno sulle tre settimane, ne sapremo molto di più nel corso della puntata. Non è stata una tattica così balorda, se posso dirlo. No, dal loro punto di vista ci mancherebbe, hanno vinto, bene così. Quando hai nomi che sai, che hanno un'esperienza sui grandi giri, che possono tenere, mettertelo davanti è un rischio, mentre invece se avessero potuto dare la maglia a uno che sapevano che poi si sarebbero rimangiati con enorme facilità, forse l'avrebbero anche fatto, non lo sappiamo. No, non lo sappiamo. Sappiamo invece che sulla salita finale ci ha provato Antonio Tiberi, ci ha provato Dani Martinez anche con un tentativo. Pogacar ha soltanto risposto a loro, non ha quasi che volesse metterli alla prova. Ragazzi, oggi forse non voglio vincere, vediamo che sapete fare. E cosa hanno saputo fare? Non tantissimo. Beh, intanto Tiberi ha guadagnato un forte complimento da parte di Pogacar. Ha detto questo ragazzo ha le palle. Anche ha detto proprio così? Sì, balls. È stato bello vedere, insomma, no? I complimenti di questo ragazzo che a me ha esaltato abbastanza, devo dire. È stato lui primo a attaccare. Pogacar ha risposto in modo facile, sia lui che Arensman anche. Però meglio provarci, no? Marta? Sì, no, infatti ha detto che sapeva già che appunto Tiberi va forte in salita, che sarebbe stato, diciamo, ce l'aveva nel mirino. Però ha detto proprio appunto questa cosa, le palle, perché ha avuto le palle di attaccare, quindi sappiamo anche questo adesso. Ultima cosa, ultimo personaggio, magari citato da Kautz, anche da suo idolo, voleva che vincesse lui oggi, Einar Rubio, ora ne parliamo. Michele citavi Einar Rubio, io sono andato, il mio idolo mi sembra una parola un po' grossa, però è un corridore che mi piace, ha un bel carattere. e sono andato ad avvicinarlo alla fine della tappa molto velocemente, è stato anche molto gentile e anche lui molto sorridente, ma credo che questo sia una sua peculiarità caratteriale. E gli ho chiesto giusto due cose, ve le faccio sentire. Einer Rubio, non c'è modo di batterlo Pogacar. Vabbè, lui è veramente, veramente forte, imbattibile. Sì, proviamo, ancora resta molto di giro, può essere che la terza settimana riusciamo, non lo so, però dobbiamo tentare lo stesso. Pelaio dice che Einer Rubio arriva sul podio di questo Giro d'Italia. ci dobbiamo tentare, siamo qua per quello, abbiamo fatto tanto lavoro, tanto sacrificio, quindi per forza dobbiamo tentare. Grazie Einer, complimenti. Grazie a voi. Allora, sul fatto dell'attaccare sempre, del continuare a provarci, mi sembra ovvio, credo che sia anche la risposta che dà qualsiasi corridore, anche la speranza di arrivare sul podio, cosa che non è neanche così peregrina. Probabilmente quello che un po' mi spaventa delle parole di Rubio è che dice magari nella terza settimana. Non so se l'aspettativa è che Pogacar le vinca tutte da qui alla prossima settimana, compresa la prossima, che peraltro è una settimana anche altimetricamente abbastanza facile. Però ecco, forse anche giustificata come aspettativa che Pogacar le voglia vincere davvero tutte a questo punto. E allora, chissà se entro la terza settimana Tadej Pogacar sarà evoluto definitivamente nel villain che forse sta diventando, non lo sappiamo, se Rubio riuscirà a conquistare una tappa intanto. Se evolve nel villain e vince il Giro d'Italia abbiamo già il suo soprannome. Cioè? Rose Villain. E questo per rientrare in clima di Eurofestival, ma anche per rientrare in clima di Tadej Pogacar, che oggi si è presentato un po' più sorridente del solito con la stampa, almeno quella scritta, quella televisiva non l'ho visto. E qualcosina in più l'ha accennato, ha parlato molto esplicitamente, cos'è che ha detto sulla fuga a un certo punto? Cioè ha dato anche una lettura di corsa abbastanza interessante sulla fuga. Ha detto che secondo lui i primi fuggitivi sono, erano nel rosso, nel quello che chiamano i corridori in the red zone, quindi la zona di fatica più alta, la massima esposizione all'acido lattico, troppo presto, troppo presto nella tappa, e quindi nell'ultima fase erano scarichi, non avevano più, ed è stato più facile per i suoi compagni di fuga chiudere. Sì, anche se poi ha spiegato, ha ribadito più e più volte che lui è qua per vincere, perché la sua squadra ha usato un'espressione tecnica molto interessante, ha detto che i suoi compagni di squadra si fanno un culo così per gestire la corsa, e quindi lui anche per gratitudine deve andare a vincerle queste corse, e soprattutto finalmente, forse anche per questo è stato sorridente, diceva che questo arrivo a Prato di Titivo, dove lui ha vinto già 3 anni fa, gli evoca bei ricordi perché aveva dedicato la vittoria alla sua fidanzata. Per cui forse un po' di amour ci riporta un Pogacar anche più allegro. E ci riporta alla rubrica che in questa edizione di Gironimo ci sta aiutando a scoprire dei dettagli, delle curiosità in più su questa maglia rosa, il Pogaciario, che ormai conoscerete e che grazie a Marta oggi ci fa scoprire che cosa? Allora, per la prima cosa potrei dirvi che ho scoperto che a qualcuno lì dentro nel pullman, mi piace sperare che sia Tadej, piace Gigi Dug, perché l'altro giorno alla partenza di tappa pompava fortissimo a be, na na na na na. E quindi vabbè, Tadej uno di noi, ma in realtà vabbè, la cosa che ho scoperto non è questa, ma ho cercato di torchiare Fabio Baldato, che ovviamente non è che si potesse sbottonare troppo, ma mi ha detto che, ecco, una cosa che ti posso dire su Tadej è che è uno che capisce al volo, cioè che capisce tutte le istruzioni, i brief, precorsa, alla prima che non gli aveva mai rispiegato niente, mi ha detto forse in maniera anche un po' diciamo senza pietà verso altri, cioè ci sono corridori a cui devi ripetere le cose 2 milioni di volte, invece Tadej, tac, ha detto è una macchina, capisce tutto subito. E si vede, e chissà se imparerà qualcosa in questo Giro d'Italia, sicuramente sì, un esordiente che oggi avete visto molto in TV, se avete guardato la tappa, sto parlando di... Ci siamo? Ci siamo, è lo speciale siamo su... allo speciale Tobias Steinhauser. Georg, Tobias è suo figlio, papà, figlio di Tobias, sono quindi anziano. Georg Steinhauser, corridore della Education First, 22 anni, tedesco, al suo primo grande giro. Oggi era l'ottava tappa, la prima volta nella sua vita che corre una corsa che dura più di una settimana da professionista, e quindi aspettava molto questa tappa, è andato bene. Ascoltiamo la prima parte dell'intervista. Good morning Georg, how are you? I am good. Already 7 stages done. I'm looking forward for this one. So, yeah. You have a special relation with Italy. You won already a race here. How do you like it? What's special in Italy for you? My trainer is Italian. Already as a kid, I was a lot in Italy. In the winter, I go for training in Italy. So, yeah, I really like it. It's a country of cycling. It has a super special like villages and cities. And of course, like everybody, the food. What's your favorite food? Focaccia. I really love focaccia. Which one? We have many kinds of focaccia in Italy. From Genova, from the south, from... Which was the last... in which? I think Genova. Yeah, in Genova. Or Perugia yesterday. Yeah, in Perugia. In Perugia. There was some focaccia at the start. Oh, that was awesome. Dunque, buongiorno Georg, come stai? Sto bene, ha risposto lui, abbiamo fatto 7 tappe, ho grandi aspettative per quella di oggi, infatti l'avete visto in fuga. Gli ho chiesto, hai una relazione speciale con l'Italia, hai già vinto una corsa qui, era una tappa al Giro della Valle d'Aosta nel 2021. Sì, il mio allenatore è italiano, già da ragazzino venivo spesso qui, in inverno vengo ad allenarmi qui, mi piace molto, è una delle patrie del ciclismo, le città e i paesi sono speciali e poi ovviamente, come dicono tutti, c'è il cibo. E io gli ho chiesto qual è il tuo preferito e Georg ha risposto la focaccia, amo la focaccia. A quel punto gli ho dovuto chiedere ma quale? In Italia abbiamo tanti tipi diversi, c'è quella genovese, quella del sud Italia, volevo dire barese. No Leonardo, non era quella barese, è inutile che ci provi, scusami ma la focaccia è una sola. E lui ha risposto, anzi ha chiesto a me e all'addetto stampa della IF che era lì qual è l'ultima che abbiamo mangiato. O era quella di Genova qualche giorno fa o quella di Perugia di ieri e lui ha detto no, mi ricordo che ce l'hanno offerta prima della partenza ed effettivamente devo confermare era a Genova che ai corridori è stata offerta della focaccia che lui ha definito awesome. For people that don't know you, can you describe yourself as a rider? What kind of rider are you? I'm a rider who tries to go out there and just has fun, you know, and of course I want to show my best self on the road, and yeah, I mean, obviously I need some climbs, I need some harder races, and yeah. Cycling is in your DNA because of your family, but is more like destiny for you or passion? For sure it's passion. I mean, without the passion, I don't think any rider would stand or would be in a position of a world tour rider, because you just have to sacrifice so much, you have to love the sport to be able to do it every day on such a high level. Dunque, per chi non dovesse conoscerti, puoi descrivere che tipo di corridore sei? Lui ci ha pensato un po' e poi ha detto semplicemente sono uno che prova a divertirsi. Certo, poi voglio mostrare in strada la versione migliore di me stesso e a me servono delle salite ed è molto meglio se le corse sono dure, perché lui è un passista, scalatore, l'avete visto quanto è bello alto e piazzato. Il ciclismo è nel tuo DNA, gli ho chiesto, per via della tua famiglia, abbiamo detto figlio di Tobias, professionista dagli anni 90 e l'inizio dei 2000, ha corso anche con Ulrich, tra gli altri, e Jan Ulrich è stato per 10 anni il marito della zia Sara di Georg. E a questo punto gli ho chiesto, quindi il ciclismo, fatte queste premesse, è per te più destino o passione? E Georg ha risposto senza dubbio passione, perché senza passione non credo che nessuno potrebbe fare il ciclista in una squadra World Tour. C'è così tanto da sacrificare per questo sport, devi amarlo per essere in grado di fare tutti i giorni a questo livello questo lavoro. A proposito di lavoro, gli ho chiesto di questi suoi studi in ambito metalmeccanico che lui ha fatto e ha completato da poco. When I turned 23, I made my degree as a metal worker. So actually my first year here in the EF, I was still working from 6:30 in the morning to 12:30 at lunchtime. And then in the afternoon I was on the bike. Where were you working? I did this in the company of my father actually. So that is also how it was possible that I worked only 5 hours per day. But the school part I still had to do normal, and I had to take a contact with the team and look that the school is not overlapping with the races. Lui ha risposto: quando sono passato nella categoria Under 23 ho completato il mio diploma, i miei studi da metalmeccanico. Il primo anno qui alla Education First ancora mi dividevo tra il ciclismo e la fabbrica. Lavoravo dalle 6.30 alle 12.30 e il pomeriggio mi allenavo. Gli ho chiesto dove lavorasse: nell'azienda di suo padre, che è un'azienda, la Steinhauser Metal Technic, fondata nel 1936, oltre 900 metri quadri di stabilimento. Realizzano anche costruzioni complesse e consegnano in tempo. Questo l'ho letto sul sito, non me l'ha detto lui. Scusa, ma ci pagano? Non ho capito, sono i nostri nuovi sponsor? Non sarebbe male. Siamo comunque sempre dalla parte del metal, per cui gli diamo spazio volentieri. E il fatto che lui lavorasse nell'azienda di famiglia era il motivo per cui poteva permettersi di farlo part time, quindi solo per alcune ore al giorno. Invece per gli studi non c'erano sconti, gli toccava insieme alla squadra organizzarsi in modo che le lezioni non si sovrapponessero alle gare, insomma, e così via. E gli ho chiesto in che tipo di lavorazioni è specializzata questa azienda di famiglia. It's like a metalworking factory. So yeah, we build like a everything you see out there of steel, we can build. In Germany, right? In Germany. And do you think you will have a future also in that field, or now you're just focused on cycling? I mean, now I just focus on my cycling. This is the thing I enjoy. This is, what I live for. But I think when I'm like an older professional or something, I think this is something that gives you more rest and more security about your career, that you have a plan B. E lui ha risposto: qualsiasi cosa che vedete fatta in acciaio noi la possiamo produrre. Gli ho chiesto: si trova in Germania? Sì, in Germania. Pensi che possa rappresentare anche una parte del tuo futuro? E lui ha risposto: adesso ovviamente sono concentrato sul ciclismo, è la cosa che amo fare di più, la cosa per cui vivo. Però penso che quando sarò più grande, un professionista più vecchio, questa è una cosa, è una situazione che mi dà più sicurezza e un piano B nella mia vita. Last question. From your experience in the factory, what can you use in cycling? I mean, what kind of character gives you, or something else? Yeah, I think for me it was always nice to see, you know, like you're at the races, you are a little bit of a like special person, the staff cares about you. And then when I came home from racing, I was in the factory and I did like the everyday man's normal work. And I think this really showed me how special it is to have the privilege to be able to do your sport as your job. Grazie mille, Georg, and good luck. Thank you very much. Ultima domanda, gli ho chiesto: da questa tua esperienza in fabbrica c'è qualcosa che hai imparato e che puoi usare nel ciclismo a livello di carattere o di qualcos'altro? E lui ha risposto: per me è bello notare come alle corse, quando sei alle corse, in un certo senso tu sei una persona speciale. C'è uno staff che si prende cura di te. In fabbrica invece facevo una vita da persona normale, la quotidianità di un lavoratore come gli altri. E questo mi ha mostrato quanto sia unico avere questo privilegio di fare del tuo sport un lavoro. E poi gli ho augurato una buona tappa ed è stata per lui, possiamo dire, una buona tappa quella di oggi. Bene, bene, viva Steinhauser, tutta la famiglia Steinhauser. Vedremo come si evolverà la carriera di questo ragazzo, che potrà diventare un ragazzo anche molto utile per i suoi capitani. Come utili al proprio capitano quest'oggi sono stati i compagni di squadra di Tadej Pogačar, che Tadej ha ringraziato ripetutamente dicendo che è andato a vincere la tappa per coloro che lavorano per lui. E questa cosa, non so come, è arrivata anche all'orecchie di una persona che sta molto lontano. La parola del giorno. 今日の一言。グレガリオ、サポーター、サポーター。 Dunque, Michele, hai visto quanto è sul pezzo il nostro sensei? Sì, molto sul pezzo. Io però sono convinto di andare... Ma non è un caso che Shimano ci ha messo in contatto con lui. No, ma no. A proposito, Shimano, lavorazione dell'acciaio, no? Tutto torna. Tutto torna. C'è un Phil Rose che attraversa questo podcast. Io vorrei smettere di imparare il giapponese e andare a lavorare alla Steinhauser Metal Mechanic. Comunque. E però, ora ti ripeto la parola che ho imparato oggi, che è gregario. Sì. Sapota. Sono andato. Non andiamo male, è sicuramente una la migliore, un'altra, secondo me, oggi. Sì, la migliore, forse la migliore, un'altra di quelle sicuramente parole in cui ci aiuta il fatto che hanno una derivazione dall'inglese. Non è che non sono state tutte derivate dall'inglese. Possiamo, perché stiamo arrivando verso il primo giorno di riposo, io vorrei che tu almeno qualcosa lo avessi imparato davvero. Allora, me ne vengono giusto due. Vai. Fuga. Oddio, ho un blackout, devo controllare tra gli appunti. Aspetta che scorro, fuga e linee. Qualcosa così. Non so quanto i tuoi appunti siano, come all'università quando chiedevi gli appunti ai compagni e poi capivi che l'avevi chiesto a quello che si era fatto dei viaggi durante la lezione. Vabbè, andiamo sul facile, questo lo sto chiedendo tutti i giorni. Bicicletta. Danger. Questo sembra più storto ogni volta che lo dico, ma... Parola del giorno. Oddio, quello che dice ogni volta. Però è l'unica che non ho segnato, perché... Volevo coglierti in castagna, va bene, di questa cosa ne parleremo... Ce l'ho. Insomma, ci torneremo al lavoro nei prossimi giorni. Puoi fare così, se non ti vengono in mente, chiedi all'intelligenza artificiale. Grazie ai laboratori tecnologici della Fufas Corp, oggi hai la possibilità di ricevere a casa tua una nuova tecnologia all'avanguardia. Un assistente virtuale di ultima generazione, in grado di rispondere alle tue più profonde esigenze. I nostri scienziati hanno creato Giri. Ehi Giri, perché la maglia rosa è del colore rosa? Perché è rosa? Sì, si chiama maglia rosa perché è rosa. Ma perché hanno scelto quel colore? Quale colore? Il rosa. Quale rosa? Quello della maglia rosa! Vabbè dai, lasciamo perdere. Con Giri finalmente non avrai a disposizione più informazioni. Con Giri non avrai risposte alle tue domande. Ma con Giri ti sentirai più intelligente. Più intelligente di lui, di Giri. Giri? Qual è il cambio tra euro e dollaro? Il Festival di Sanremo. Ma cosa c'entra il Festival di Sanremo? Scusa, ma tu che domanda mi avevi fatto? Vabbè, dai, lasciamo perdere. Giri, benvenuti nel futuro. Benvenuti nella stupidità artificiale. Cioè, comunque, Giri, quantomeno è un conversatore nato. Non ti senti mai solo perché poi controbatte. Ma questa Fufas Corp, Filippo, secondo te ha un futuro, diciamo, ma possiamo monetizzare? Io adesso non ho capito dove si trova in vendita, devo un attimo informarmi, ma io sono già un... Ma magari ce ne facciamo dare qualcuno in omaggio. Ma io un civile manderei alla Fufas Corp, quasi più che alla Steinhauser Metalmeccanica. Poi se Giri è in metallo, possiamo farcelo costruire dalla Steinhauser eventualmente. Fa tutto ciò che è in metallo, possiamo magari si possono alleare, non lo so. Non so, so che mi sento al sicuro adesso che so che c'è in giro Giri. Non è che ci mandi un vocale, Giovanni, cos'è che c'è da dire su Prati di Tivo? Ma Prati di Tivo è un posto fantastico perché è il versante... cadere nel fosso però. Per no, non cadere nel fosso. è il versante nord dell'Abruzzo e quindi del Gran Sasso e quindi, diciamo, quello molto più nevoso, molto più anche più accessibile di Campo Imperatore, che invece è più impervio, più tibetano. Invece da questo lato... si può arrivare e c'era un turismo invernale che ormai ovviamente non c'è quasi più perché non c'è più l'inverno e perché, diciamo, la crisi climatica ci ha regalato degli ottimi relitti di archeologia industriale a forma di impianti di risalita. La funivia funziona ancora per fortuna, ma soprattutto d'estate, e invece, diciamo, le seggiovie sono rimaste un po' lì. Aspetta, c'è anche il papà di Giovanni, che si chiama Nicola. E poi cos'altro abbiamo su Prati di Tivo? Dai che ti vedo caldo. Ma, diciamo, è solo bello, oltre che... È solo bello. È la capitale dell'alpinismo del centro-sud. Va bene, ragazzi, cosa fate adesso? Aspettate la corsa e poi? Scendiamo. E poi si mangia, spero. E poi si mangia, esatto. Dai. Elemento fondamentale di Prati di Tivo, anche nel resto dell'Abruzzo, ma Prati di Tivo è molto valido, il cacio fritto. E poi ovviamente gli arrosticini, i maccheroni alla chitarra con le pallottine, che sono piccolissime polpette, e poi il timballo di scrippelle, cioè le crepe. Hanno tutti dei nomi bellissimi. Queste scrippelle si fanno sia in brodo, ma la morte loro è il timballo, e dentro questo timballo ci si mette un quintale di roba, quindi pancetta, salsiccia, mortadella, mozzarella, verdure, qualsiasi cosa praticamente, e diventa un piatto leggero leggero, favoloso. Leggero leggero. Bene, la nostra transizione verso un podcast culinario è ormai praticamente completa. Adesso andiamo al traguardo, che facciamo un piccolo momento sul ciclismo, poi dopo... Ma pure, ma vi occupate piccolo, anche piccolo, di ciclismo. Sì, per dissimulare. Grazie. Ciao, mille. Ciao. Ciao ragazzi. Oggi il Giro arriva finalmente in Abruzzo e abbiamo incontrato un abruzzese doc all'arrivo. In realtà l'abbiamo incontrata altre volte, ma oggi in particolare la incontriamo di più. Benvenuta. Grazie, grazie a tutti. Sono Latifa Ben Harara, sono un direttore di corsa di origine del Marocco, nata e cresciuta a Sulmona e appassionata di ciclismo veramente a tutto tondo. Latifa, tu sei vestita in divisa Giro d'Italia, chi viene alle tappe li vede, questi personaggi con questa maglietta blu con scritto enorme Giro d'Italia e questo pantalone, come lo definiamo, cachi, non so. Non so beige, esattamente. Crema. Crema è bellissimo. Lavoro in segreteria, quindi ci occupiamo di tutta la parte legata alle comunicazioni ufficiali, diciamo la sede centrale della comunicazione. Però quello che mi incuriosisce è il fatto che tu riesci ad allungare un po' il percorso del Giro d'Italia, no? E a portarlo fino in Marocco. Tu sei originaria del Marocco per quali strade? Allora, mia madre è di Casablanca e mio padre è di Bni Mellal, anche se appunto casa l'abbiamo a Casablanca. E il mio sogno, perché era veramente solo un sogno, quello di unire le mie due case, quindi Sulmona e Casablanca, in bicicletta. Quindi saranno 45 tappe, si chiama From Maiella to Sahara Bike Experience e ci sono tanti sponsor che hanno creduto nell'iniziativa e diciamo che il sogno era veramente di viverla così, come una lunga cicloturistica, e invece poi ho scoperto che ci sono tanti GPM, vuol dire tanti discorsi da scollinare, come l'idea di una donna che vada sola in bicicletta, perché non è scontato purtroppo in alcuni paesi arabi una donna che va in bici non ma è ancora anche in paesi europei, non ti preoccupare. Ancora non del tutto ben vista, quindi dobbiamo abbattere questo muro e poi sono dell'idea che il ciclismo più di qualsiasi altro sport unisce i popoli, perché siamo per le strade, quindi siamo aperti a conoscere altre persone, altri territori e per ultimo, ma non per ordine di importanza, abbiamo subito un importante e devastante terremoto che ha colpito la zona di Marrakech e dintorni lo scorso ottobre, quindi vorrei raccogliere dei fondi per aiutare bambini che o non hanno perso genitori o comunque non hanno più una casa o addirittura ci sono strutture delle scuole che mancano, quindi essere a disposizione degli altri penso che sia una delle ragioni per cui siamo al mondo, quindi riceviamo tanto e bisogna ridare altrettanto e a me il ciclismo ha dato tanto, quindi vorrei ridare quanto mi ha dato fino ad oggi. Allora, diciamo subito come si può contribuire a questa tua raccolta fondi. Allora, stiamo facendo un crowdfunding con Banca Etica e stiamo preparando questo sito internet che massimo tra un mese dovrebbe essere online, quindi ci sarà possibilità sia di seguire una tappa da remoto sia di correre una tappa con noi, avremo un mezzo a seguito con un'assistenza meccanica e un videomaker che riprenderà questi 4200 km tra l'Italia, la Francia, la Spagna e il Marocco. From Maiella to Sahara significa che da dove partiamo e dove arriviamo e quanti chilometri sono? From Maiella, quindi dalla Maiella, la montagna madre. Luogo di partenza? Sulmona. Sulmona, la patria di confetti per eccellenza, patria di Ovidio Nasone, appunto il luogo dove sono nata e cresciuta che mi ha reso quella che sono, perché sicuramente se ero nata altrove non sarei la stessa persona. Diciamo, arriviamo al deserto di Sahara come destinazione Zagora. Quindi uniamo anche due patrimoni UNESCO, quello della Maiella e quello del Sahara. E ringrazio, già mi permetto di approfittare della situazione, ringrazio chiunque veramente mi abbia aiutato fino ad oggi e che crede e ha creduto in questa iniziativa, che non vedo l'ora di partire, dai. Ma più o meno quando? Veramente spero vivamente che riusciamo a partire entro settembre, ci sarà la presentazione ufficiale l'8 settembre e poi niente, la partenza l'ultima settimana di settembre, la data diciamo dal 23 al 27, ma non spoilerò, rimanete connessi per avere maggiori informazioni. Comunque hai sorvolato sulla domanda quanti chilometri sono. 4200! Va bene, sappi sempre che abbiamo la bici di Michele Pelacci in furgone. Occhio che me la faccio prestare. Se poi hai bisogno di allenarti, te la presta. Lo dico io, Michele, non c'è qua adesso, te la prometto io. Grazie, grazie. Accetterò. Grazie a te, buon giro e buona avventura. Grazie, grazie a te e a tutti gli amici di Alvento e a tutti quelli che ci hanno ascoltato oggi. Grazie. E dunque, un'altra giornata in cui ci siamo fatti delle belle frullate automobilistiche, le mie gambe cominciano a risentirne, anche per questa scelta di dimenticare i microfoni al parcheggio che adesso mi ha obbligato a fare un su e giù improvvisato, ma un'altra giornata di splendidi incontri, per cui li salutiamo di nuovo Pierluigi, Giovanni e suo padre, i due enfants de pays. E la mamma di Pierluigi che ci ha fatto la crostata. La mamma di Pierluigi che ci ha fatto la crostata, assolutamente. E ringraziamo e mandiamo il nostro in bocca al lupo alla Tifa per questo viaggio bello lunghetto, insomma, sarà interessante seguirla e lo faremo e faremo il tifo per lei. Ma torniamo ancora un passo indietro al mattino, quindi un incontro col corridore che avete sentito in apertura, che ci ha salutati al solito, come tutti quest'anno, con un tono non esattamente entusiasta. Sto parlando di Nicola Conci. Abbiamo fatto una chiacchierata a partire da un suo viaggio di cui ascolterete, e poi ovviamente con lui si parla anche di musica. Nicola Conci, come stai? Buongiorno. Ma dai, bene, stiamo lavorando bene, il giro è iniziato positivamente, quindi dai, siamo fiduciosi. Per cominciare, ho visto che hai fatto questo grande viaggio in Kenya. Ah sì. Recentemente, in autunno, in inverno. Sì, sì. La vacanza che si fa di solito a fine stagione, l'anno scorso ho deciso di farla in Kenya insieme alla mia ragazza. Abbiamo fatto 4 giorni, 5 di safari ed è stato molto emozionante, dopodiché solo 2 giorni, 3 di mare, giusto per rilassarsi un attimino, però è stato veramente bello. Abbiamo visto momenti particolari come le leonesse con i cuccioli al tramonto e anche molto molto vicini, oppure abbiamo avuto la fortuna di vedere dei ghepardi, quindi quelli veloci, attaccare e predare alle 6 di mattina del mattino. È stato veramente bello, è incredibile come quegli animali da vicino siano molto differenti, soprattutto i leoni, quanto siano possenti le loro zampe è assurdo, dalle foto non ci si rende assolutamente conto. Avete mai avuto paura durante questi safari? No, assolutamente, anzi penso che gli importasse proprio meno di zero gli animali che noi fossimo lì, perché come ho detto c'è stato veramente un momento in cui una leonessa penso fosse a meno di 2 metri dalla macchina, ma veramente è passata con nonchalance come se non ci fosse nessuno. L'unico momento in cui ci siamo sentiti come dire in mezzo per gli animali è stato quando stavamo attraversando la strada del safari e un gruppo di elefanti era sulla via e uno di loro ci ha fermato e ha aperto le orecchie e fatto il verso dell'elefante come per dire ehi, qua passiamo noi prima. Senti, c'è un paragone tra gli animali della giungla e il gruppo in questo momento in cui sembra non esserci mai riposo, sono tutti lì pronti a predare gli avversari. Tu che sei uno tutto sommato tranquillo come carattere, come ti trovi in questo ciclismo così aggressivo? Non è di certo semplice perché appunto è un ciclismo veramente a tutta quello di oggi e quindi è necessario stare bene e avere anche un po' di fortuna come poi deve succedere anche nella savana, perché penso che come dicevo è sempre il momento di cacciare, quindi bisogna essere sempre attenti e bisogna cercare di essere il predatore e non la preda, però non è semplice, a volte sia uno, a volte sia l'altro, ma comunque dai, si cerca di divertirsi, ecco. Ti sei segnato un giorno per la tua caccia in questo Giro d'Italia? Già ci hai provato, però qualche altro? Sì, ci sono diverse tappe adatte, come dicevo la condizione è abbastanza buona, quindi penso che tutte le giornate un pochettino più dure in generale possano andare bene. Chi è il leone di questo Giro d'Italia? Sicuramente Taddei, anzi non so, forse è anche un mix di un leone e un ghepardo. Penso che il ghepardo sia anche più forte del leone, perché apparentemente non ho avuto la fortuna di vederlo, ma caccia la sua preda e ha la capacità e la fortuna di poterla portare sugli alberi, quindi nessuno è in grado di toglierla. E l'elefante chi è? Quello che fa i richiami, i suoni più spaventosi? Quello forse è un po' un ruolo da sceriffo che ormai manca nel gruppo, devo dire. Nel ciclismo di oggi non c'è più quella persona guida, quei corridori che avevano il coraggio di dire adesso ci si ferma, adesso ci va, e cose del genere, però dai, insomma. Benjamin Thomas, vincendo, ha fatto un gesto che richiamava una canzone dei Maneskin, ha fatto Zitti e buoni. Se tu dovessi vincere, te lo auguriamo, che canzone citeresti nella tua esultanza? Ah, non saprei, positivamente ho tante canzoni nella testa, mi piace la musica, quindi dipende veramente dal periodo, vado dall'ascoltare anch'io i Maneskin oppure hard rock, AC/DC, cose del genere, come negli ultimi giorni, a dire la verità, sto ascoltando Lucio Battisti, quindi non penso che mi sia di aiuto a livello di carica, perché è tutt'altra cosa, però insomma a me piace ascoltare la musica per la musica in sé, quindi Lucio è un grande, cioè la sua musica è una grande musica, quindi mi piace ascoltarla in questi giorni. Tra le sue, la tua preferita? Ma ho appena scoperto quella canzone, Io vorrei, non ricordo neanche il titolo, ma proprio negli ultimi giorni la sto ascoltando veramente tante volte. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Ma se puoi, sì, esatto. No, il ritornello lì è stupendo, quindi dipende un po' dalle giornate. E allora ringraziamo Nicola Conci che ci ha proposto questa figura quasi mitologica, misto tra leone e ghepardo per Tadej Pogačar, ma soprattutto io sono in attesa, se dovesse vincere, di vedere questa sua esultanza con Vorrei, non vorrei, ma se vuoi, che è la canzone di Battisti che sta ascoltando in questo momento. Ma rimanendo in tema di creature mitologiche, è il momento di passare alla tappa di domani, che ci viene presentata dallo splendido 41enne Domenico Pozzovivo, il Pozzo di Scienza. La nona tappa del Giro d'Italia 2024, da Avezzano a Napoli di 214 km, chiude la prima settimana del Giro. Si parte dall'Alveo del Fucino, una conca appenninica caratterizzata da fenomeni carsici e sede di un antico lago prosciugato poi nell'Ottocento e bonificato successivamente nel secondo dopoguerra. E la prima parte, usciti dall'Alveo del Fucino, si snoda lungo la valle del Velino con una strada a scorrimento veloce. Si abbandona la valle del Velino intorno al chilometro 61 e da lì, con una veloce discesa, si passa successivamente da Cassino e ci si approccia alla costa tirrenica, che si raggiunge dopo circa 115 km. Saranno ancora lunghi tratti rettilineo a caratterizzare i successivi 40 km, attraversando i grossi centri di Mondragone e Castel Volturno, e siamo nella zona vocata alla produzione delle famose mozzarelle di bufala, appunto perché in questa zona ci sono tantissimi allevamenti di bufale che possono beneficiare della pianura, delle ampie disponibilità di acqua della pianura alluvionale. Negli ultimi 40 km il paesaggio cambia, che si entra nella zona dei Campi Fregrei e si costeggiano diverse caldere di vulcani, antichi vulcani spenti, e si entra appunto nella parte più vallonata con la salita dal Monte di Procida, fatta al versante opposto rispetto a quello del circuito di Napoli del 2022. È una salita divisa in due piccole sezioni. È una discesa molto veloce, riporta su Bacoli, sarà seguita poi da uno strappo molto impegnativo che porta al lago Lucrino, ma comunque uno strappo di meno di un chilometro. Superata questa parte un po' più tortuosa, su strada non particolarmente ampia, si riprende una strada più ampia, ma comunque con altri due strappi che portano verso il centro di Napoli. E in particolare l'ultimo strappo si situa a 10 km all'arrivo, e in 3 km porta la famosa collina di Posillipo, che ha una vista stupenda sul Golfo di Napoli, e da lì si scende con 4 km di discesa molto veloce fino al bellissimo lungomare di Chiaia, dove è posto l'arrivo con gli ultimi 3 km completamente pianeggianti. Or dunque, domani tappa bellissima, non vedo l'ora, come sempre, quando si arriva a Napoli c'è da godere, da riempirsi gli occhi, sarà una tappa veramente superba dal punto di vista visivo, dal divertimento, ci aspettiamo tanta gente, sarà una tappa focosa, sì, calorosa. Ma tu devi fare il pronostico, magari migliore, io? Di Rubén Fernández, oggi 75esimo all'arrivo a 17 minuti. Invece Domenico Pozzovivo è andato molto bene oggi, si sta abituando così, memorizzando le tappe, a migliorare i suoi piazzamenti. Domani giornata calorosa, Napoli, amore, pizza, mandolino, Maximilian Schachmann. Bella chiamata. Corsi e ricorsi storici mi fanno sperare, pensare, ipotizzare che domani a Napoli vince uno tra Simon Clark e Alessandro De Marchi. Molto bello anche questo. Questo presuppone che arrivi la fuga domani, immagino, Michele, giusto? Certamente. Quindi dici che Pogacar domani non è interessato a vincere la tappa, perché è adattissima a lui anche la tappa ma di domani. Ma non possiamo pronosticare Pogacar. Possiamo pronosticarlo, cioè, però è ovvio che tutti diremmo Pogacar anche domani. Non dovendolo dire, presupponendo a questo punto che arrivi la fuga, che è l'unico modo grazie al quale o a causa del quale non vinca la maglia rosa, Marta, chi potrebbe vincere? Domani innanzitutto vinco io, perché sarò in auto con gli amici di Shimano, per cui voglio proprio vedere chi mi frega. E invece io faccio un nome di una persona che conosciamo e che ci parla spesso, Mikkel Frolik Honoré. E allora abbiamo sparato i nostri nomi a caso anche questa sera, prima di concludere questo episodio che va in dirittura d'arrivo. Noi siamo ancora in cima al Grande Sasso e dobbiamo scendere su sassi sempre più piccoli fino ad aggiungere la città di un volatile, diciamo, la città volatile di L'Aquila, dove ci aspetta la cena, auspicabilmente. Non sappiamo se ci arriveremo, ve lo faremo sapere nella puntata di domani. Ci vediamo a Napoli, ciao, venite a trovarci, portateci dei babà. Possiamo chiudere, secondo me, eh? Non so, magari abbiamo altri desideri che vogliamo esternare. Io mi aspetto che domani al traguardo ci sia ad accoglierci tutto il cast di Un Posto al Sole, come minimo. Può essere, può Vorrei essere. Vorrei chiudere cantando la sigla, ma lo farò domani. Fai pure.